La storia e la memoria di Dino Pesole. Da Cavour a Stalin, i venti di guerra che, sospinti dalla crisi in Ucraina, spirano impetuosi e minacciosi in Crimea, ci inducono in qualche modo a riportare indietro nel tempo le lancette dei nostri orologi, ai tempi della guerra fredda, dello scontro tra blocchi contrapposti tra Unione Sovietica e Stati Uniti, e ancora indietro nel tempo, fino all'Ottocento. Già perché la penisola di Crimea ha alle spalle una lunga storia di conflitti, dalla guerra a cui prese parte Cavour con 15.000 piemontesi guidati dal generale La Marmora nel 1854 per sedersi al tavolo della pace a Parigi e porre sul tavolo la questione italiana, fino alla seconda guerra mondiale, quando si fronteggiarono i sovietici e i nazisti. La guerra di Crimea del 1854-1856 ne devastò il tessuto economico e sociale. I tatari che la abitavano furono costretti ad abbandonare la loro madrepatria. Durante la guerra civile russa, la Repubblica Popolare di Crimea fu una roccaforte dell'Armata Bianca antibolscevica. Poi fu teatro di alcune delle più sanguinose battaglie della Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi soffrirono pesanti perdite, cercando di avanzare attraverso l'istmo che collega la Crimea all'Ucraina continentale, a Parekop, nell'estate del 1941. Quando i tedeschi riuscirono a irrompere, occuparono gran parte della Crimea, con l'eccezione della città di Sebastopoli. La stessa resistette dall'ottobre 1941 fino al 4 luglio 1942, quando i tedeschi riuscirono infine a conquistarla. Nel 1944 Sebastopoli venne liberata dalle truppe sovietiche. Il 18 maggio 1944 l'intera popolazione dei tatari di Crimea venne deportata con la forza dal governo sovietico di Stalin. Si stima che il 46% dei deportati morì per la fame e le malattie. Fu proprio a Yalta, in Crimea, che Churchill, Stalin e Roosevelt decisero nel 1944 spartizione e nuovi equilibri geopolitici mondiali. La svolta è del 1954, quando il leader sovietico Nikita Khrushchev cede la Crimea all'Ucraina come gesto simbolico per commemorare il 300° anniversario del trattato Pereslialaf tra i cosacchi ucraini e la Russia. Con il collasso dell'Unione Sovietica, la Crimea è entrata a far parte dell'Ucraina, una soluzione osteggiata dalla gran parte della popolazione ormai di origine russa e causa di tensioni tra Russia e Ucraina. La Crimea è sempre stata storicamente territorio russo. Come sappiamo, a Sebastopoli la Russia ha ormeggiato la sua imponente flotta navale, ponte strategico sul Mar Nero e dal Mar Nero al Mediterraneo. Di tutto questo parliamo questa sera con il professor Ettore Cinnella, che è docente di storia contemporanea e storia dell'Europa orientale ed è uno dei massimi esperti di storia russa. Buonasera, professore. Buonasera. Ci aiuti a capire un po' meglio quello che sta accadendo. Ovviamente la crisi in Ucraina è l'epilogo di una situazione, abbiamo provato a raccontarla ai nostri ascoltatori, che affonda le sue radici nel tempo. Ecco, ma secondo lei era inevitabile che si arrivasse a questa situazione di grave tensione? Beh, io credo di sì. Lei ha fatto una presentazione, credo, molto chiara e anche esatta del passato, quindi i prodromi della crisi. E il problema oggi è l'atteggiamento della Russia, ovviamente. La Crimea fa parte dell'Ucraina, questo dal 1954, poi allora formalmente, perché l'Unione Sovietica era uno Stato centralizzato. Dal 91, cioè da quando l'Ucraina è indipendente, la Crimea è una regione dell'Ucraina. Ha anche avuto dei vantaggi, nel senso che c'è è stata concessa una certa autonomia. Il problema però è la presenza militare russa, cioè la flotta russa ha una delle sue più importanti basi militari proprio a Sebastopoli. E questo complica enormemente le cose, diciamo. Come risolvere il problema? Il problema è sempre, ripeto, nell'atteggiamento della Russia, cioè nella volontà della Russia di mantenere il suo impero, perché è di questo che si tratta, insomma. Certo, cioè, la Russia di Putin non vuole rinunciare a quello che aveva, insomma, non vuole rinunciare. Da parte è chiaro il progetto di Putin: ricostituire l'Unione Sovietica. Non può farlo subito, non può farlo per intero, però cerca di prendersi un pezzo alla volta. Questo pezzo ce l'ha già, diciamo, un pezzo dell'Ucraina che è in mano russa, perché ci sono le basi militari russe, e non vuole cederlo. E quindi se lo va a riprendere. E se lo va a riprendere, insomma, certo. Quindi manda, insomma, è un gioco abbastanza sporco, diciamo, no? Perché, insomma, sì, di fatto ha invaso il territorio di uno stato sovrano. Ma le sembra credibile che oggi, appunto, nel 2014, in un mondo globalizzato, con gli equilibri geopolitici che conosciamo, si possa immaginare un ritorno ai tempi della Guerra Fredda, perché abbiamo visto la reazione degli Stati Uniti piuttosto energica? La reazione degli Stati Uniti è stata energica, ma quella dell'Europa abbastanza, io mi scusi il termine, ma pusillanime. Un po' blanda, quantomeno. È anche miope, perché, insomma, la posta in gioco è molto alta. Insomma, qui si tratta di non violare le frontiere di uno Stato. Si può rinegoziare, certamente, si può anche decidere di concedere alla Russia alcune basi militari, insomma, ma tutto questo deve essere però il frutto di una trattativa diplomatica, non può essere il risultato di un'azione di forza, e questa è la cosa grave. Cioè, Putin si comporta come agivano i governanti sovietici, i quali invadevano l'Ungheria, la Polonia, la Cecoslovacchia, eccetera, quando pensavano che i loro interessi fossero compromessi, ma si tratta di stati sovrani, insomma. Ecco, in questo scenario, professore, l'Italia, che, come abbiamo ricordato poc'anzi, ha con la Crimea un rapporto storico, perché Cavour provò a sedersi al tavolo alla metà dell'Ottocento a Parigi, e quindi inviò i 15.000 piemontesi guidati dal generale La Marmora, ma a parte questo precedente molto lontano del tempo, ha un ruolo da svolgere per contribuire alla soluzione della crisi? Non un ruolo specifico, perché non ha interessi specifici ovviamente l'Italia, però l'Italia fa parte dell'Unione Europea, può far sentire la sua voce all'interno dell'Unione Europea, e credo che si sia allineata alle posizioni della Germania, che non sono, secondo me, le più giuste. In ogni caso non sono quelle capaci di risolvere la crisi. Mi sembra molto più chiara e forte è stata la voce della Francia. Ecco, cioè, qui si tratta di far capire alla Russia che non si possono violare le frontiere riconosciute dai trattati internazionali e riconosciuti universalmente, altrimenti capisce bene, insomma, noi potremmo prenderci la Corsica, allora, dire che la Corsica un tempo è stata italiana. Ci sono minoranze nazionali in tutti gli stati europei. Che significa questa autorizzazione a invadere le frontiere, tutelare gli interessi dei russi? No, dice Putin, dice il governo di Mosca, ma gli interessi, diciamo, la vita, i beni, le proprietà dei cittadini russi, dei cittadini, diciamo, russofoni in Ucraina, in Crimea, non sono minacciati al momento attuale da nessuno, insomma. Cioè, sì, la Russia avrebbe il diritto di intervenire se ci fosse una reale minaccia ai cittadini russi, ma questo per il momento non c'è. Quindi certo. Una volontà sopraffattrice. E poi c'è il fatto fondamentale che la Crimea è un ponte strategico sul Mar Nero e dunque sul Mediterraneo, e quindi mette quindi in gioco anche gli interessi dell'Unione Sovietica nella crisi siriana. Cioè, insomma, la Russia vuole di nuovo fare la voce grossa, ne ha il diritto, è stata una grande potenza, ha ancora un territorio gigantesco, però, insomma, non è questo il modo di agire, insomma, cioè di intervenire pesantemente, minacciare, intimidire, mandare le truppe. Cioè, non si è arrivati ancora allo spargimento di sangue, perché gli ucraini sono ritirati, diciamo, gli ucraini non hanno reagito, insomma. Però se lei si immagina che cosa sarebbe successo se ci fosse stata una reazione anche incidentalmente, insomma, se qualche reparto ucraino avesse aperto il fuoco, che cosa sarebbe successo? Certo, un bagno di sangue. Sarebbe già un bagno di sangue, uno scenario di guerra, insomma. Cioè, bisogna far capire alla Russia tutto questo. E l'Ucraina a questo punto però è a un bivio, perché dovrà col referendum decidere da che parte stare, perché a questo punto o con... Certo, il referendum, sì, il referendum in Crimea è scontato, perché la maggioranza della popolazione... russa. Ma un momento, perché la maggioranza della popolazione è russa? Ma perché sono stati cacciati via i tatari, che erano gli abitanti di quella regione? E quindi, diciamo, invece di riparare i torti passati... I tatari hanno patito moltissimo, no? La deportazione del 44, della primavera del 44, la decimazione, quasi metà della popolazione perì durante la deportazione, ma poi le peripezie proseguirono anche dopo, durante il periodo sovietico, perché con la destalinizzazione molte nazionalità videro riconosciuti i loro diritti e i tatari invece ebbero difficoltà a ritornare nelle loro terre. Di fatto oggi, ecco, non so la percentuale precisa, ma siamo intorno al 12-15%. Questo si è ridotto alla popolazione tatara in Crimea. Era la loro terra. Il nome Crimea, cioè Kirim, in russo Krim, in ucraino Krim, è un nome tataro, è un nome turcofono. Grazie, professor Cinella. Lo ricordiamo, storico, uno dei massimi esperti di storia russa nel nostro paese, autore di diversi libri, tra cui ricordiamo 1917, La Russia verso l'abisso, pubblicato da Della Porta. Buonasera, professore. Grazie tante, buonasera.